1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. E ci siamo, cari ascoltatori, sono le 7:17, qui dagli studi di Radio 24 a Milano. È la fine della 140esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Ebbene sì, oggi c'è un titolo che ho trovato sulla stampa: le province sono abolite, ma è il caos. Ma va! Ho detto, ma dai! Oh mannaggia, mannaggia. Vabbè, noi continuiamo a contare. La 141esima settimana potrebbe essere quella che ci regalerà grandi sorprese, grandi soddisfazioni. Chi lo sa, intanto andiamo a leggere i giornali. Venerdì 8 gennaio, i titoli. Il Sole 24 Ore apre ancora sullo shock Cina, pesa sulle borse. Questo è il titolo di prima pagina, perché chiaramente le notizie che provengono dalla Cina sui mercati finanziari sono notizie che inquietano moltissimo. Per il Corriere della Sera, il caso Colonia, donne molestate, un caso europeo, Merkel dice espulsioni. Sulla questione però degli immigrati, la notizia più importante forse c'è la Repubblica, riguarda l'Italia. Clandestinità via il reato, ma è scontro. È l'obiettivo del governo cancellare il reato di clandestinità previsto da Bossi-Fini, in vigore da diversi anni. Il decreto sarebbe già pronto, ma lo scontro del governo è che il nuovo centrodestra di Alfano frena. Poi il giornale ancora su Colonia, Islam, la Merkel ora ha paura, questo è il titolo di prima pagina, mentre La Stampa, Francia e Libia, l'ISIS fa paura. Il Messaggero, donne molestate, c'era un piano. E così il Secolo XIX, Colonia, l'Europa si chiude. Mentre Avvenire titola, mettendo in primo piano sia Parigi sia la Libia, l'attentato in Libia, senza più pace. Questo è il titolo di prima pagina. Per il Fatto Quotidiano invece questa storia è abbastanza incredibile, che vedremo tra poco. Renzi da rabbia e la rissa dei Rolex d'oro scomparsi. Una missione del governo di recente a Riyadh, finita addirittura, racconta Il Fatto, in rissa, per accaparrarsi i Rolex regalati dai sauditi. Bah, quasi quasi mi incuriosisce talmente che la leggiamo subito. Eccola qua. Guarda, pagina 2. Carlo Tecce racconta la missione recente in Arabia Saudita al seguito del premier Renzi. La visita di tutta la delegazione italiana. Giù le mani dal mio Rolex, e dopo la rissa regali spariti. Parapiglia tra dirigenti del governo in viaggio con Matteo Renzi per il Rolex, elargiti dagli amici di Riyadh. A un certo punto racconta Carlo Tecce che i sauditi regalano appunto degli orologi. Il cerimoniale sta per conferire i regali, il momento è di gioia, ma un furbastro rovina tutto, desidera il Rolex e quindi scambia la sua scatoletta con il pacchiano cronografo con quella dell'ambito orologio svizzero e provoca un diverbio che rimbomba nella residenza del re saudita. Tutti reclamano il Rolex. Per sedare la rissa interviene la scorta di Renzi, sequestra gli orologi, li custodisce fino al ritorno a Roma. La compagine diplomatica guidata dall'ambasciatore Varricchio inorridisce di fronte la scena da mercato di provincia per il chiasso che interrompe il sonno dei sauditi, anche perché i generosi arabi sono disposti a reperire presto altri Rolex pur di calmare gli italiani. Non sarà un pezzo d'oro a sfaldare i rapporti tra Riyadh e Roma. Che sarà mai una vagonata di Rolex? Il guaio è che degli orologi, almeno durante le vacanze natalizie, non c'era più traccia a Palazzo Chigi. E ora il giallo è questo, lanciato dal Fatto Quotidiano. Chi si è tenuto i Rolex per i quali la compagine italiana ha litigato in maniera furibonda, racconta Il Fatto, proprio lì nel palazzo reale dei sauditi? Va. Se è successo veramente quello che racconta Il Fatto Quotidiano, mamma mia, sempre i soliti italiani che si accaparrano per il Rolex. E vabbè. Tra l'altro rimango sul Fatto Quotidiano perché Antonello Caporale fa una straordinaria intervista al ragioniere e perito commerciale Salvatore Bosco, pensionato sindacalista UIL che presiede il CNEL. Ieri si raccontava su un altro giornale del CNEL, sul Messaggero del CNEL, praticamente chiuso, sparito, eppure ci sono ancora gente che va, c'è gente che va a lavorare, dipendenti che si presentano al lavoro, ma a lavorare a fare che? E si sono dati anche un premio di produttività. Ecco che Salvatore Bosco, il presidente del CNEL, intervistato dal Fatto Quotidiano, pagina 6, difende: noi siamo finiti ma meritiamo quel premio. Ma chi l'ha detto che non c'è da lavorare? Il nostro lavoro è finito. Ma chi lo dice? Anche mia moglie certo mi domanda: ma che ci vai a fare in ufficio? E io mi addoloro e chiedo la comprensione. In Parlamento siamo appena stati a fornire il nostro parere sulla legge di stabilità. In delegazione abbiamo due commissioni funzionanti. Prenda nota di questo. E il CNEL serve ancora? Chiede Antonello Caporale. Io lo terrei, anche se sono riformista. Però, certo, i dirigenti quanto prendono? Ma forse arrivano a 100.000 euro l'anno senza dover fare nulla? Beh, è un'amarezza che mi porto dentro, risponde il presidente del CNEL. Se ritengono che questo organismo non abbia più senso, misura e scopo, lo dicano. Ma scorge volti depressi in ufficio? Sa, il dispiacere è tanto. Qui c'è gente che ha trascorso la vita tra queste carte. Ma prendere lo stipendio e non lavorare, questa è una vera tortura. Irride Caporale. E Dalli le torna a dire che lavoriamo comunque, abbiamo due commissioni di studio aperte, è stato appena redatto il parere sulla legge di stabilità. Io comunque una specie di CNEL lo conserverei, così dice il presidente del CNEL Salvatore Bosco. L'accusa è: prendete i soldi, vi date i premi e non fate una mazza. Questo in estrema sintesi e molta brutalità. Vabbè, voglio darvi una buona notizia, perché tutte le volte che la scorgo, la trovo, io la cerco, la seleziono e ve la do per rispondere a tutti quelli che mi dicono: ma così ci fa arrivare in ufficio arrabbiato, ci racconti solo cose che non vanno. Racconto quello che raccontano i giornali. Adesso io non è che posso inventarmi le cose, lo dico sempre, ma una buona notizia c'è. Eccolo qua, pagina 21 del Corriere della Sera. Claudio Delfrate racconta quello che ha fatto il Trentino Alto Adige. Il bonus a mamma e papà se si congedano insieme. E questa già è un pizzico di buona notizia, ma la vera buona notizia è che, come hanno fatto in Trentino Alto Adige a recuperare dei soldi per dare il congedo, il bonus a mamma e papà se si congedano insieme, li hanno chiesti ai politici. Si sono fatti restituire 3 milioni di euro dai vitalizi degli ex consiglieri regionali del Trentino Alto Adige. Glieli hanno chiesti indietro dopo una grande braccio di ferro, perché quelli non li volevano ridare. Ma eccolo qui, al termine di un serrato braccio di ferro, la regione Trentino-Alto Adige ha riottenuto 3 milioni di euro, parte di una maxi liquidazione pagata sull'unghia a 127 ex consiglieri, e hanno utilizzato questi 3 milioni di euro per investirli nei bonus per i congedi di mamme e papà. Hanno detto in Trentino: ci siamo accorti che tante coppie, specialmente i padri, non usufruiscono dei congedi parentali previsti dai contratti, invece i genitori dovrebbero dedicare più tempo all'educazione dei figli, in più alle madri dovrebbe essere concessa una migliore conciliazione dei tempi di lavoro e della casa, e dunque eccolo qua il bonus mensile tra i 400 e i 600 euro per chi, soprattutto i papà, vogliono dedicare più tempo alla famiglia. Soldi recuperati dai vitalizi dei politici. Ma c'è un applauso gigante che so che state facendo anche voi mentre andate nelle vostre faccende affaccendati. Un applauso gigante al Trentino Alto Adige. Vedete che si possono fare le cose. Si sono recuperati 3 milioni dai politici vitaliziati con bonus giganteschi e si sono investiti per un bonus di 400-600 euro per le persone che ne hanno bisogno. C'è veramente, tienilo lì pronto, perché ogni tanto questo potrebbe diventare un tormentone. Grande Peter Bescapè con l'applausone al Trentino Alto Adige. Allora, racconta invece Libero, che c'è una possibile svolta sul caso giudiziario dei Marò. Ricordate Massimiliano La Torre e Salvatore Girone? Si trascina la vicenda dal 2012. E oggi Libero scrive in prima pagina: così hanno incastrato i Marò. Ecco le prove che i Marò, che scagionano i Marò. Le prove che dimostrano come siano innocenti. Chiara Giannini racconta tutta pagina 17: a sparare ai due pescatori del Sant'Anthony non furono i Marò. Confuta ogni dubbio l'analisi del perito Luigi Di Stefano e dei suoi tre collaboratori di Annex 3, ovvero il charge sheet, il documento finale inviato dagli inquirenti indiani alla magistratura di quel paese e depositato al Tribunale del Mare di Amburgo. Sarebbe stata invece una barca greca che quattro ore prima della Lexie, dove erano a bordo Girone e la Torre, ha sparato dalla barca greca, avrebbero sparato uccidendo i due indiani, mentre dalla barca dove c'erano a bordo la Torre Girone, che viaggiava a velocità di crociera, ci furono solo degli spari in acqua per far desistere un barchino pirata che ha tentato l'assalto. Questo almeno dice, in base a questa perizia, Libero, così i greci hanno incastrato i Marò. Questo si racconta con l'attacco invece attribuito alla nave greca Olympic Flare. Da lì sarebbero partiti i colpi che hanno ucciso i due pescatori indiani. Rimango su Libero perché è il momento dell'articolo che ci fa pensare della giornata. L'articolo da Mani sul volante o posizione d'atterraggio di emergenza se ci state ascoltando dai treni. La notizia è questa. Ricordate la vicenda terribile della sedicenne che è accusata di aver istigato il fidanzato ad Ancona a uccidere i genitori di lei? Ebbene, la notizia è questa: fece uccidere i genitori, questa è l'accusa, erediterà tutti i loro soldi. La ragazzina di 16 anni, accusata di aver istigato il fidanzato a freddare mamma e papà, riceverà l'abitazione di famiglia, le pensioni di reversibilità. Questo a prescindere dalla sentenza, lo dice al Messaggero, e oggi lo riporta Libero, il tutore legale della giovane sedicenne, perché dice: qualunque sia la sentenza, solo i parenti più prossimi possono presentare richiesta di indegnità all'eredità, ma nel caso della ragazzina tale ipotesi sembra lontana. E poi è figlia unica e quindi spetta tutto a lei per le regole di successione che prevedono il passaggio dei beni. Addirittura anche nel caso una persona sia condannata con sentenza definitiva per l'omicidio dei genitori. Ed eccolo qui allora: il massacro di Ancona fece uccidere i genitori, l'accusa è questa, e ora avrà tutta l'eredità. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice: sono cose che capitano. Alessandro Mira, il tronca dell'informazione. Il commissario tronca. Allora. Ci dicono: metti gli applausi, poi a fine anno vediamo con l'applausometro qual è la notizia più bella. Ci scrive via sms un ascoltatore. Ci salutano anche da Istanbul, evviva tutti i nostri ascoltatori che ci seguono dall'estero. Marco, buon 2016 da Istanbul, evviva, ciao Marco. Ovviamente, allora, dobbiamo parlare proprio di attualità internazionale. Ci sono tante notizie non buone, a cominciare da Parigi, dove a un anno dalla strage di Charlie Hebdo, pochi mesi dalla strage del Bataclan e degli altri locali, c'è stato ancora l'incubo attentato, perché un marocchino ventenne con una finta cintura esplosiva ma con un coltellaccio vero e una rivendicazione dell'ISIS in tasca, una lettera che inneggiava all'ISIS, ha attaccato la polizia al grido di Allah Akbar, brandendo il coltello da macellaio. Ha tentato di fare irruzione in un commissariato a Parigi nel 18° arrondissement ed è stato freddato dai poliziotti. Per carità, un'azione singola, forse senza grandi pretesi, davvero, davvero suicida, ma ormai dobbiamo abituarci a questo? E questa è la domanda che vi faccio. A Parigi torna l'incubo terrorismo, racconta Marco Imarisio a pagina 2 del Corriere della Sera. Dal balcone del quinto piano, la professoressa Reca Poloni ha visto i due poliziotti che urlavano all'uomo che avanzava verso l'ingresso del commissariato. Gli hanno detto di fermarsi almeno 5 volte. Hanno estratto le pistole e quando è arrivato a 2-3 metri di distanza hanno sparato. Il corpo di Salah Ali è rimasto sul marciapiede visibile a tutti per 40 minuti, durante i quali una zona di 600 metri quadri nel quartiere più popolato di Parigi veniva isolata, i negozi invitati a abbassare le serrande con dentro i clienti, i bambini e i ragazzi delle due scuole nella via raggruppati per ore nelle palestre. L'unica cosa che si muoveva intorno a lui era il piccolo robot che doveva verificare la presenza di congegni esplosivi su quel cadavere vestito di jeans azzurri e un giaccone scuro di foggia militare. Non ha trovato niente. E però il terrore nuovamente si è sparso per Parigi, l'incubo dell'attentato c'è. Tra l'altro Il Giorno oggi racconta una vicenda che invece non riguarda Parigi. Per carità, lo stesso Giorno, mettendo la pagina 7, dice: era uno scherzo terribile, ma sentite cosa è successo a Vignola, in provincia di Modena. Vignola, siete cristiani o musulmani? E poi fanno una finta esecuzione. 5 sedicenni modenesi sono stati vittime di un gruppo di magrebini. Li hanno fermati questi magrebini, avevano una pistola vera, hanno sparato un colpo in aria, hanno detto: fermatevi. Siete cristiani o credete in Allah? E questi ragazzi terrorizzati di Modena, di Vignola, dice: non crediamo in niente. Ma gli stranieri, non contenti, li hanno fatti mettere in fila e hanno ripetuto la stessa domanda uno a uno mentre puntavano loro l'arma. Siete cristiani o credete in Allah? Non crediamo in niente, ancora raccontano terrorizzati questi ragazzi. A quel punto, con una mezza risata, l'individuo armato li ha liberati dicendo: era solo uno scherzo, potete andare. Succede a Vignola, in provincia di Modena. Lo racconta Valerio Gagliardelli a pagina 7 del Giorno. Evviva! Dobbiamo poi saltare a Colonia, dove l'apertura di molti quotidiani è dedicata a questa tematica. La vicenda delle tante donne che stanno facendo denunce, e denunce non sono ancora finite, sono già 121 le denunce arrivate alla polizia per molestie, assalti sessuali, 2 anche per stupro, nei confronti di una banda di arabi. La parola banda di arabi l'ha usata la polizia di Colonia, non è una parola né mia né dei giornali. Ora la Polonia, la polizia di Colonia dice erano troppi per fermarli. La Slovacchia invece reagisce con il premier Robert Fico dicendo: basta arabi in Slovacchia. È chiaro che c'è anche il rischio di reazioni un po' isteriche, se volete, un po' esagerate. Comunque sono salite a 121 le denunce, stranieri e rifugiati siriani tra gli assalitori di Colonia, stranieri e rifugiati siriani, questo dice la polizia, tra l'altro con alcuni che irridevano la polizia stessa dicendo: che volete, è Frau Merkel che ci ha voluto qui e quindi non potete farci niente voi della polizia. Polizia stessa che dice: altro che furti e borseggi, quei giovani arabi puntavano a stupro, violenza, molestie sessuali. Questi erano i loro primi obiettivi. I furti e i borseggi, semmai, sono stati un qualcosa che hanno fatto alcune persone, ma la maggior parte voleva appunto violenza nei confronti delle donne. Parla il sindaco di Colonia, è una donna, Henriette Recker, avvocato. Abbiamo detto più volte che è stata eletta sindaco di Colonia al primo turno pochi giorni dopo che uno xenofobo l'ha accoltellata alla gola in campagna elettorale. È una donna che predica tolleranza, inclusione e che oggi al Corriere della Sera, intervistata da Maria Serena Natale, a pagina 5 dice: sottovalutato il fenomeno, non intendevo intanto quanto mi è stato attribuito quando in conferenza stampa ho detto che le donne devono tenersi alla larga degli sconosciuti, nel senso che la giornalista del Corriere dice: sembra quasi che lei dia la colpa alle donne aggredite. Non intendevo questo, ho pronunciato quelle parole nel corso di una lunga conferenza stampa. Alla fine mi è stato chiesto di portare un esempio concreto di come fare e ho fatto quello, cioè tenete almeno un braccio di distanza dagli sconosciuti, ma non c'era alcun collegamento con gli eventi di Capodanno. Però dobbiamo ribadire che i colpevoli non sono stati ancora individuati e identificati. La polizia, dalla quale mi aspetto una forte autocritica, dice il sindaco di Colonia, finora non ha potuto fornirmi elementi concreti su identità e nazionalità dei responsabili. Comunque, ogni giorno lavoriamo al buon vivere insieme, ci concentriamo su quello che ci unisce e non su ciò che ci divide. Ma allora dove ha fallito il modello di integrazione tedesco? Ecco la risposta del sindaco di Colonia, Henriette Recker. È in evoluzione. Abbiamo realizzato troppo tardi di non aver colto le dimensioni del fenomeno. Non abbiamo capito quante persone venissero in Germania per restare. Ora si sostiene il progetto rafforzando il coinvolgimento attivo dei cittadini in tutti gli ambiti del vivere comune. Comunque, la questione immigrazione ha soprattutto la notizia principale in Italia. E sì, perché Repubblica mette questa notizia in prima pagina, è una notizia che c'è solo con questo risalto su Repubblica, ed è una notizia che Liana Milella spiega a pagina 8, abbastanza importante, anzi molto importante. Il governo vuole cancellare il reato di immigrazione clandestina. 15 righe stanno per cancellare, dopo 7 anni, il reato di immigrazione clandestina. Tecnicamente si chiama depenalizzazione, la vuole fortemente il guardasigilli, cioè il ministro della giustizia Orlando. L'ha appoggiata quasi all'unanimità prima di Natale la commissione giustizia alla Camera. La sponsorizza il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Roberti. La chiedono i procuratori di frontiera. Sono 15 righe che cancellano l'articolo 10 bis del testo unico della Bossi-Fini, emendato però sul punto dal decreto sicurezza 2009. Pieno governo Berlusconi, al Ministero dell'Interno c'era Maroni, alla giustizia Alfano, vollero e votarono il reato di immigrazione clandestina, poi ripetutamente bocciato dall'Unione Europea, perché non punisce un comportamento ma uno status, cioè quello di clandestino appunto. Il giorno buono della cancellazione, racconta Repubblica, avrebbe potuto essere già oggi, ma Alfano si è opposto e dunque per ora salta. Ma questo è l'obiettivo del governo. C'è anche un'intervista al procuratore Roberti, procuratore antimafia e antiterrorismo, che dice a Repubblica: il reato di immigrazione clandestina è un ostacolo alle indagini. I dati ci dicono che non ha avuto finora una funzione dissuasiva. Da 2 anni il mio ufficio si occupa intensamente del coordinamento delle indagini sul traffico di migranti via mare gestito da organizzazioni criminali. In questa attività ci è stato segnalato il problema del trattamento giuridico processuale dei migranti proprio in relazione al reato di immigrazione clandestina. Quindi andrebbe tolto anche per il procuratore antimafia. E questo forse succederà. Non so, dobbiamo andare in Libia per scoprire che un camion bomba ha fatto almeno 65 morti, oltre 120 feriti tra le reclute della polizia in una zona tra Tripoli e Misurata, e sono stati incendiati, pare dall'ISIS, 7 depositi di petrolio. Questo per dire la pacificazione della Libia quanto è un processo lungo e difficile. Finiamola qui con le notizie dall'estero, perché davvero è un estero tra l'altro molto vicino, Libia, Francia, come vedete, non molto distante. Veniamo alle cose italiane. La politica italiana si discute sulla vicenda di Quarto in Campania, dove il Movimento 5 Stelle ha vinto, ma c'è un consigliere del Movimento 5 Stelle che era candidato nel Movimento 5 Stelle, poi è stato espulso, che aveva preso molti voti e che è ora indagato dalla direzione antimafia. Grillo dice: lo abbiamo espulso per tempo, anzi siamo stati i primi a espellerlo, e poi i suoi voti non sono stati determinanti per la nostra vittoria. Ma la situazione è di grande polemica. Grillo dice: i voti non sono stati decisivi. Però le accuse ci sono. Sentite per esempio Stefano Esposito, senatore del PD. Aspetti, senta qua, da Casaleggio a Casa Monica il passo è breve, perché Stefano Esposito dice: vuole sapere chi è Alfonso Cesarano, intercettato a Quarto mentre caldeggiava il sostegno al Movimento 5 Stelle? È l'organizzatore del noto funerale di Roma dei Casa Monica di quest'estate. Ed ecco allora l'accusa di Stefano Esposito. I 5 Stelle si difendono, certo che però il rischio che ci sia lo scioglimento del comune di Quarto è abbastanza concreto. Secondo la stampa, addirittura il Movimento 5 Stelle vuole le dimissioni del suo sindaco a Quarto, anche perché pesa questa storia raccontata da Guido Ruotolo a pagina 8. L'autorità nazionale anticorruzione, un Raffaele Cantone, ha acceso i riflettori sull'amministrazione grillina di Quarto, perché dopo un'interrogazione parlamentare della senatrice PD Capacchione, Cantone ha chiesto informazioni al prefetto di Napoli su un'impresa su cui grava l'interdittiva antimafia che ha avuto un appalto dal comune. Quindi l'accusa potrebbe essere questa: il sindaco, la sindaca Capuozzo, ha fatto lavorare un'azienda già segnalata con interdittiva antimafia all'anticorruzione. Insomma, le accuse aumentano. E intanto Casaleggio denuncia il sabotaggio. Attenzione, hanno forse sabotato l'auto di Casaleggio. Casaleggio dice: per due volte ho trovato i bulloni delle ruote della mia auto allentate. Potrebbe essere dolo. Mauro Meazza, attenzione, eh? Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, ma attenzione... Non sono mica andato io ad allentare il bulloni. No. Secondo il nostro vicino è andato Beppe Grillo addirittura a allentare i bulloni a Casaleggio. No, non so, io posso testimoniare che ero al telefono con te. Va bene, Vorrei dirti però, mi compiaccio che sei tornato a introdurmi facendomi precedere da vicende giudiziarie così. Associazioni mafiose. Ce ne sono tante. Ma questo mi fa piacere, è tutta materia, come sai, per il mio avvocato. È chiaro. Raccogliendo un adeguato faldone, ma sono contento di questa tua attenzione per le notizie relative alla giustizia. Perché guarda, ti voglio dire, oggi sul Sole 24 Ore trovi appunto la segnalazione che ci sarà, finalmente partirà il credito d'imposta per chi fa ricorso a una negoziazione assistita o all'arbitrato. Mm-hmm. Sai che ci sono delle procedure alternative alle cause vere e proprie, queste procedure sono state anche incentivate con una misura fiscale, la misura doveva essere attuata, ecco adesso oggi, proprio oggi, Giovanni Negri nelle pagine dei Norme e Tributi, perché poi Giovanni Negri scrive anche in realtà in un'altra pagina occupandosi del reato di clandestinità, ma di questo abbiamo già detto, so che hai già parlato, quindi de hoc satis, come dicevano gli antichi. Vabbè. Ecco, invece per quanto riguarda la parte dello sconto fiscale sulla negoziazione, ti invito a leggere le pagine di Norme e Tributi, come sempre religiosamente. È chiaro. Anche perché tu, so che oramai sei stato all'estero, quindi ti esprimi correntemente in inglese, sicuramente saprai del bail-in. Chi oramai non sa del bail-in? Allora, sono le misure, lo ricordiamo per i pochissimi che fossero rientrati alle Seychelles, che so, l'altro giorno, che sono in vigore dal 2016 per il salvataggio delle banche in crisi. Siamo nel 2016? Siamo nel 2016, partito nel 2015, ma siamo già nel 2016. Allora, queste misure vengono tra l'altro spiegate oggi nelle pagine della guida alla manovra, che abbiamo raccolto sempre nella sezione di Norme e Tributi. Poi guarda che ci sono addirittura tre ebook. Se per caso uno, non so, fosse stato alle Seychelles, sì, poniamo il capo. Può succedere. Si è perduto, che so, il manuale di educazione finanziaria, la manovra spiegata comma per comma, 999 commi raccontati uno per uno, o le pagine di guida alla manovra. Ebbene, abbiamo raccolto il tutto in tre ebook. Trovi le segnalazioni di conseguenza proprio nelle pagine di Norme e Tributi. Molte altre cose ti vorrei dire, naturalmente, come al solito. Ti ricordo, oggi con il Sole 24 Ore torna How to Spend It. Sì. Visto che tu ne hai da spend it, io ti segnalo che noi diamo come ogni mese l'How to Spend It. Poi parliamo con il direttore personale di questi tuoi soggiorni, sì, particolarmente lussuosi. Poi ne parliamo con comodo. Ti vorrei dire invece che tempo anche di occuparsi del petrolio, che è ancora, è ancora calato, è ai minimi da 11 anni, vi spieghiamo sul Sole 24 di oggi, addirittura qualche analista non dispera, non, così, non esclude di poterlo vedere addirittura intorno ai $20 al barile, che sarebbe una cosa, non so fino a che punto venderanno al supermercato, essere una buona notizia, però questo è buona notizia, è l'andamento dell'occupazione, so che ovviamente oggi ne parlano tutti i giornali, ne parliamo diffusamente anche sul Sole 24 Ore, più 36.000 occupati a novembre. Sì. Una notizia, come diciamo talvolta, da dita incrociate, così come terrai le dita incrociate sabato sera, certo, per questioni calcistiche, io ti faccio naturamente tanti con chi tanti gioca tanti l'Inter? Auguri. Con chi gioca l'Inter? L'Inter gioca nel lunch match, sempre per stare nel bail-in, nel lunch match. Con? Il lunch match contro il Sassuolo. Faccio un pronostico, 1-0, 1-0. Non saprei, vedremo domenica, comunque sicuramente avremo da divertirci sabato perché c'è una partita importante, mi pare Roma-Milan, se esatto, non vado. Esatto. Vedi che sarà una partita importante, ti faccio tanti tanti cari auguri. Grazie, anche a te. E per tutti che non ti rimanga indigesto il pranzo domenica. Ma speriamo di no, e per tutti gli ascoltatori naturalmente. Traffico! Alessandro Milan, il Sinisa Mihajlovic dell'informazione. Straordinario! Quindi sto per perdere il posto perché, come titola la Gazzetta dello Sport, c'è Lippi, forse in arrivo se va male sabato. C'è anche Brocchi. Ora, io sto cercando di far capire che Milan di Brocchi non è una cosa che proprio anche suoni benissimo, ma non vogliono ascoltare, quindi avanti così, faccino pure, faccino loro, Milan di Brocchi, va bene, andiamo avanti così, forse è un Milan di Brocchi, va bene, comunque torniamo alle cose serie. Il Milan, si diceva, no, torniamo alle cose di cronaca. Allora, intanto c'è stata la prima condanna per mafia capitale. La prima condanna è arrivata per Daniele Ozzimo, che è un ex assessore del PD, 2 anni e 2 mesi per corruzione. Tra l'altro lo stesso Ozzimo parla a Repubblica, dice è vergognoso, non mi hanno voluto credere, speriamo in appello. È stata una cantonata quella presa dalla procura nei miei confronti, così si difende Daniele Ozzimo, è il primo condannato, mentre procede la discussione sulle unioni civili. Può sembrare un discorso un po' stantio, ma continua il discorso sulle unioni civili. Ci sarà un vertice tra Renzi e il ministro Boschi, questo raccontano tutti i giornali, per cercare di sbloccare la situazione. Tra l'altro, singolarmente, sia il Corriere della Sera che Repubblica intervistano Gualtiero Bassetti, che è il cardinale uomo del nuovo corso di Bergoglio. Lo stesso cardinale intervistato al Corriere della Repubblica dice ai due quotidiani sì al riconoscimento di coppie omosessuali, ma senza le adozioni. Per le adozioni ci vogliono un uomo e una donna. Questo sembra un po' il fronte su cui si discute all'interno soprattutto del governo del nuovo centrodestra. C'è da dire che Renzi, nei retroscena che tornano di Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, pagina 17, Renzi ai suoi dice: per me è fondamentale che le unioni civili si facciano, perché mi vergogno di stare in un paese che non ha una legge del genere. Voglio mantenere fede e impegno che ho preso con gli italiani, intendo portare a casa il risultato. Questa è la posizione di Renzi, che dunque vuole assolutamente chiudere su questo tema. Del lavoro abbiamo detto, oggi c'è però un'altra notizia importante, 2 pagine di risalto della notizia di prima pagina data dall'Unità. Ed è questa, vediamo se recupero anche la prima dell'Unità, il tesoro degli italiani. Da oggi il Demanio mette online per la prima volta l'intero immenso patrimonio dello Stato. È un'operazione di trasparenza e valorizzazione di 32.000 edifici e 14.000 terreni, un valore stimato di 640 miliardi, una vetrina online per il patrimonio di Stato. C'è anche un'intervista a Roberto Reggi, che è il direttore del Demanio, che dice all'Unità così: per noi era doveroso dare informazione trasparente e aperta su quelli che sono beni pubblici. Ricordo che fino a luglio di quest'anno c'erano a disposizione solo 2 dati, cioè il numero di questi beni e il loro valore complessivo. Da luglio abbiamo lavorato per un quadro regione per regione. Da oggi chiunque troverà sul nostro sito la georeferenziazione di ciascun bene. Sembrava impossibile arrivare a poter vedere ogni singolo immobile, invece l'abbiamo ottenuta per ognuno dei 32.600 fabbricati che danno, che fanno capo al Demanio. E dunque sul sito del Demanio, Open Demanio è il progetto, c'è appunto da oggi questo progetto in cui si vedrà tutto il patrimonio immobiliare dello Stato. Oh, 640 miliardi, questo di stima. E questo lo racconta l'Unità in due pagine. Come il Messaggero torna sulla vicenda di Capodanno e la RAI. Non tanto la bestemmia finita in sovraimpressione in un SMS, ma il fatto che sia stato anticipato di un minuto il brindisi di Capodanno. Ebbene, Claudio Marincola racconta sul Messaggero che la RAI ora processa il suo dirigente perché anticipò apposta il Capodanno. Cioè, l'idea è che non è che sia stata una svista, sia stato proprio volutamente fatto da Antonio Azzolini, capo struttura presente a Matera, l'anticipo di un minuto per battere la concorrenza, cioè Mediaset, sul brindisi di Capodanno. E quindi salutando un minuto di anticipo l'arrivo del 2016. Il destinatario della contestazione avrà ora 5 giorni di tempo per presentare le sue controdeduzioni. Voleva fare audience e il direttore generale Antonio Campo Dall'Orto pare volere utilizzare con lui il pugno duro. Questo lo racconta il Messaggero. Mentre ci sono altre notizie che riguardano la scuola, dove me le sono perse, ma non so se c'è tempo di leggere. Non c'è tempo di leggere. Vabbè, erano interessanti, ma ve le lascio per dopo. Oh, c'è il dibattito sempre su Checco Zalone, il dibattito continua. Oggi c'è Claudio Sabelli Fioretti che fa un'intera pagina, a pagina 18 del Fatto Quotidiano, in cui parla appunto di tutta la vicenda Checco Zalone, il successo del film, fa un'analisi, ma non è interessante l'analisi, ce ne sono state tante in questi giorni sui radical chic, eccetera. Poi tanto io non l'ho visto il film e quindi parlo di cosa vanvera, ma la cosa interessante è il finale dell'articolo di Claudio Sabelli Fioretti, che racconta questo. Un giorno, una decina di anni fa, stavo allestendo Un giorno da pecora con Giorgio Lauro, trasmissione di radio della Radio 2, insomma, il canale 2 della RAI. Avevamo deciso di aver bisogno di un giovane spiritoso di belle speranze che collaborasse con noi. Mi imbattei in Checco Zalone. Allora facemmo un provino a Checco Zalone. Prima ancora che lui se ne accorgesse, esaminai la sua produzione e lo scartai. E dissi a Giorgio Lauro: questo non va da nessuna parte. Oggi Claudio Sabelli Fioretti, straordinario, racconta: il mio provino a Zalone non va da nessuna parte. Pagina 18 del Fatto. Ma siamo alla carta costa. Beh, noi dobbiamo fare un monumento a Roselina Salemi della Stampa. Le mando un grosso abbraccio. Se non esistesse lei, una pagina intera della Stampa. Udite bene. Diventa astro dancer. Per ogni segno zodiacale c'è il ballo ideale, che fa pure rima baciata. Eccolo qua. L'Ariete si lega perfettamente col valzer inglese, il tango. La Vergine è il segno che preferisce i balli lenti e romantici. Il Toro, signori, la zumba e la samba. Ma chi se ne frega?